4 mattino. E allora eccoci, 18 minuti, una manciata di secondi, i vostri messaggi al 349-238-6666, le vostre telefonate all'800-24-0024, il graffio di Oscar Giannino. Eccoci. Ehi. Qua, buongiorno. Ah, ecco. Senti Oscar, oggi veramente voglio puntare il dito su questa vicenda che so che per molti è nel calcio, ma non è nel calcio. Cioè, c'è un ragazzo di 18 anni che guadagnava 250.000 euro, poi si rivela un gran campione perché gli danno una possibilità, gli dà Mihajlovic, arriva in prima squadra, a fine anno i tifosi lo abbracciano, la società, il Milan, gli propone 6 milioni di euro di contratto più 1 milione di euro al fratellino che entra anche lui nella squadra. C'è un accordo fino alla fine del 2018? No, adesso a metà anno Donnarumma dice, ha un po' di mal di pancia, il suo procuratore vede l'opportunità di fare dei soldi e dice: sono stato costretto a firmare quel contratto. Ma quale costretto? Allora, titolo del Corriere dello Sport da medaglia oggi: Gigio, zitto e gioca. È una metafora dei tempi, Giovani che non riescono a guadagnare 250 euro e arriva uno viziato, ma poi ti si ritorce contro. Cioè, dire che sei stato costretto a firmare un contratto da 6 milioni di euro l'anno, secondo me non si può sentire, proprio non si può sentire nel mondo. Certo, questo Raiola, cioè tutto ruota intorno a uno dei più discussi. Bravo. E tra l'altro però spettacolari dal punto di vista dei colpi che ha portato. Vabbè, procuratori e rappresentanti, cioè questo Raiola, tutti sì. Dicono il pizzaiolo che sta sette lì, insomma. Detto questo, genio assoluto, però qui si sta rovinando la sua immagine, perché se tu a 18 anni non solo non ti accontenti di 6 milioni di euro, ma dell'accordo che hai firmato, santo Dio, la parola data, no? Boh. Io, per quello che ho capito seguendo la vicenda di Donnarumma, stiamo parlando ovviamente del portiere del Milan, ho capito solo due cose. L'anno scorso la vicenda travagliata dei suoi cambi d'opinione ha rivelato che, al netto dello spregiudicato disinvolto suo rappresentante procuratore, sappiamo tutte le vicende si comporta così, però intorno alla famiglia, il padre, i fratelli di Donnarumma, si è rivelato un coefficiente di debolezza micidiale, cioè invece di tutelare il giovanissimo Donnarumma lo hanno iperesposto. E sai com'è, quando un clan guadagna alle spalle del bimbo, il bimbo è molto giovane, la pressione dei tifosi, il rapporto con la società mediato da persone non di fiducia, insomma, secondo me l'anno scorso ha perso colpi e si vede anche, sì, in campo. Tra l'altro si vede anche in campo, nel senso che bravo, è meno super Gigio di prima. Ma capisco la rabbia dei tifosi e adesso è Milan. Peggio ancora, cioè, certo. Io sono d'accordo con te, adesso che a distanza di pochi ma mesi, neanche ma insomma, pochi mesi, è incredibile, cioè, è veramente incredibile. Era chiaro che quest'anno Raiola metteva il colpo a segno, però che ha campionato attendere. In corso, dai, su. Attendere. E l'altra cosa che si legge oggi nel retroscena di Gazzetta e Corriere dello Sport è ancora peggio, cioè pare che uno dei motivi di disappunto sia il fatto che il fratello sognava di poter già diventare secondo portiere. Quindi avremmo avuto la formazione con Donnarumma sia in campo e uno in panchina, troppo, cioè veramente questo non si è mai visto. Va bene, chiudiamo qui e salutiamo. Dallo sport al volo, hai visto che hanno trovato positivo Chris Froome, quello che ha vinto 4 tour? No. Ci aprono i giornali, la notizia, se vai a vedere Repubblica eccetera, è proprio di stamattina. Beh, io ero qui immerso a lavorare. No, infatti, ma te lo dico perché è ovvio, non sei ho neanche lì messo alle 6:30. Però un'altra botta clamorosa, perché Chris Froome, stiamo parlando del post Armstrong, cioè il ciclismo che doveva essere depurato dal doping e così via, e pare che invece anche lui, il campione britannico ipertitolato, beccato pure lui positivo. E vabbè. Vogliamo essere garantisti? No. No, dobbiamo essere garantisti, però con vista la reiterazione di personaggi al di sopra di ogni sospetto, il dubbio è legittimo. Però opponiamo a tutto questo un'immagine bella, e non me ne vogliono, ma lo pensano anche loro, i tifosi dell'Inter. Ieri il Pordenone, squadra di categoria, riesce a pareggiare con Titanici. L'Inter, arrivare ai calci di rigore, Titanici. Perdono solo all'ultimo rigore per una grande parata, e io li avrei voluti vedere vincere, se non altro per la promessa di tornare a Pordenone a piedi, e sono 300 chilometri. Io ero commosso al vedere la fine sui quanto social. Quanto ci avrebbero messo? Quanti chilometri si fanno in un giorno? 30 a piedi. piedi. E dipende dalla lena, per così dire. Diciamo che sì. 6 km l'ora si reggono se uno è un po' allenato, senza troppi sforzi. Quindi se tu fai 10 ore al giorno, quindi riesci a farne 60. 10 giorni sarebbe stato il pellegrinaggio della vita, vedi? Comunque mi ha colpito che ieri, quando si è arrivati al triste epilogo che ha ricordato i rigori, c'erano anche tifosi dell'Inter che chiedevano scusa sui social, dicendo chiedo scusa al Pordenone, per dire che insomma sportivamente meritavano, ecco. Allora, buongiorno a Roberta Lombardi, che è qui con noi, candidata del Movimento 5 Stelle alla conquista possibile, lo chiederemo a lei, della Regione Lazio, e quindi candidata a sfidare probabilmente Nicola Zingaretti. Ma prima subito una domanda, lei è appassionata ai cinepanettoni? Allora, innanzututto buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. No, francamente no. E Guerre Stellari? La vita, tra l'altro, tutti i 6 film, e con il mio figlio piccolo piano piano lo sto instradando alla saga. Ah, quindi proprio lei è esperta della materia, appassionata. Guerre Stellari, sì, assolutamente. E beh, cosa le piace della saga? C'è la contrapposizione del bene e del male, c'è la crescita di un bambino, i valori, la disciplina quando fa la formazione come maestro, come certo. Jedi, poi c'è l'amore, c'è il mistero anche del rapporto tra questi due fratelli e sorella, che poi si scoprono nella saga, il rapporto con il cattivo, con Darth Vader, insomma. Chi è il cattivo? È formativo. Esiste il lato oscuro della forza nella politica di oggi? Oh. Sì, direi, questo sono d'accordo con la risposta, sì. Bisognerebbe cercare il lato buono della forza, che è sempre più oscurato, però insomma cerchiamo di, almeno io spero di far parte di una forza politica che abbia dentro di sé, non perché sia più virtuosa in assoluto o migliore degli altri, ma che abbia dentro di sé dei meccanismi che salvaguardino il lato buono della forza, e quando magari c'è qualche tentazione oscura, questi meccanismi scattino e salvino invece l'integrità e l'etica di fare politica. E la Casaleggio Associati è Ribelli o Impero? La Casaleggio. Beh, no. Perché è stato detto, è una struttura super tecnologica, perfezionistica. La Casaleggio Associati è la Lucasfilm, è la produzione, è quello che mette in moto. Se l'è cavata bene. Se l'è cavata bene. Ho sì. detto che sono preparata su Guerre Stellari. Ma è vero che scoprì di essere incinta 2 minuti prima dello streaming storico con Enrico Letta? Sì, è vero. Non erano ma che 2 ha fatto minuti, il... erano 2 ore. Ah, però, insomma, sono rimasta sotto shock sul divano buoni un quarto d'ora dopo aver visto l'esito del test di gravidanza. Però, insomma, quindi questo vita reale si intreccia con la vita pubblica, e quindi... Per le leggi delle cause e degli effetti ha avuto anche un'influenza sulla storia politica di questo paese, no? Ma magari ma era non più... Penso. Non sicuramente ha avuto una bellissima influenza sulla storia personale della mia famiglia, però no. E Letta non l'ha mai saputo, non c'era questa confidenza. Non l'ha mai saputo fino a questo momento, forse qualcuno glielo racconterà. Senta, ma non le chiederemo, perché ormai so che glielo chiedono tutti, avete fatto pace con la Raggi? Perché poi risponde sì, abbiamo fatto pace. Invece a me piaceva che lei fosse l'unica che raccontava che c'era un dissidio vero nei 5 Stelle e che a lei la Raggi non piaceva. Lei lo ha detto apertamente, e questa è un'anomalia, in un partito molto unanimissimo, secondo me addirittura un valore, guardi. Allora, io risponderò lasciateci lavorare in pace, piuttosto che se abbiamo fatto la pace o meno, nel senso che abbiamo dei progetti, ieri abbiamo iniziato a esaminarli uno per uno per arrivare a creare un rapporto tra una regione e una città importante come Roma, un rapporto ovviamente di collaborazione, cosa che in questi anni con una regione a guida PD non c'è stata. Poi, come ha detto Virginia, noi siamo persone diverse, nel senso, non è che veniamo spesso come Movimento 5 Stelle spacciati come questo partito dal pensiero unico, ma non è così, nel senso, contrapposizioni ci possono essere, ma sono contrapposizioni ovviamente che vengono assolutamente superate, perché il progetto politico è uno, e quindi pur nella diversità e nella dialettica delle posizioni, che io rivendico assolutamente, come rivendica lei, ovviamente come rivendica Virginia, noi abbiamo il progetto politico per la regione e per la città di Roma, e questo è soprattutto. Cosa non le piace di Zingaretti? Abbiamo chiesto anche ieri a Gori due cose per cui Zingaretti proprio non le piace. L'immobilismo al di là degli annunci, perché abbiamo visto in questi anni, soprattutto in quest'ultimo anno, una serie di misure prese e adottate come se fossero anche realizzate. In realtà sono misure virtuali e anche Zingaretti, come diciamo il suo sponsor Renzi, sono affetti evidentemente da annuncite, perché poi insomma lei, Teresa, se non sbaglio, abita nella regione. Sì, abito a Piazza Vittorio, Roma. Ecco, quindi insomma ha visto anche di tutto quello che significa una regione che evidentemente non fa quello per la quale è deputata a fare. Penso prima di tutto la mancanza di assistenza sanitaria che ormai sempre di più si percepisce nella vita dei cittadini. Ormai i lazzari sono costretti o a andare fuori regione, o a rivolgersi alla sanità privata, o addirittura a non curarsi. E questo è inaccettabile. Senta, polemica gravida di simboli. Addirittura qualcuno ha fatto anche le pulce al comune dicendo non c'è stata gara d'appalto. Però c'è questa polemica su Spelacchio, l'albero di Natale di Piazza Venezia. Fra l'altro è da 2 anni. Io sostengo che se un albero di Natale è sobrio è meglio che se è fastoso. Ma volevo sapere come la pensa lei. Allora, ieri ho visto, tornando dall'incontro con Virginia, ho visto dal vero Spelacchio. Come lo chiamate? Come viene chiamato ormai? Guardi, io trovo che l'albero è un segnale, poi io sono un amante del Natale con i bambini, è un momento è un segnale di accoglienza, di benevolenza nei confronti delle persone, di calore. Però andare a concentrare tutta una polemica su mi piace l'albero, non mi piace, è più o meno verde, è più o meno rigoglioso, sì, è più illuminato dell'anno scorso, non lo so, penso che i cittadini romani abbiano qualcosa di più importante a cui pensare, quindi non mi sembra l'argomento principale della dialettica politica di questi giorni. No, io ho una domanda che sembra doppia ma è una, nel senso che a seconda del giudizio che uno dà di qual è la priorità vera da smuovere. Per esempio, io sono torinese, a Torino c'era un problema, c'era un sistema di potere prima che politiche concrete, che da troppi anni convergeva su una parte politica. È una città che ha votato l'Appennino, secondo me, innanzitutto per questo, perché era troppo evidente che pezzi di potere che andavano dalle fondazioni bancarie ai commercianti, agli industriali e così via, quando per troppo tempo ci sono queste convergenze, poi diventa una società asfittica. Torino era questo. Allora le faccio premessa: secondo lei nel Lazio vale una cosa simile, cioè c'è un sistema di potere da smontare che viene prima delle politiche da cambiare? E a seconda che questo sia, di quale sia la risposta a questa domanda, che tipo di giunta lei fa? Fa una giunta di interni militanti scelti online con le procedure del vostro partito, oppure, come secondo me un po' la vicenda di Roma dimostra, di Roma intesa come grande capitale, ecco, c'è bisogno anche di gente al di là della vita e della militanza interna, dei criteri di scelta interna, che poi sappia prendere dossier con competenza in mano e naturalmente poi con un rapporto di fiducia con lei che non si rompa in 5 settimane? Secondo me dipende molto dall'analisi iniziale che uno fa delle cose che deve fare, perché nel breve termine un conto è prima smontare grandi convergenze di potere, poi andare nel merito. Altro conto è dire no, parto nel merito, ma allora il profilo della giunta un po' cambia. Non so se sono stato chiaro. È stato chiarissimo. Il sistema di potere colloso che unisce pezzi della pubblica amministrazione, pezzi dell'imprenditoria che diventa prenditoria e basta, pezzi della politica, l'abbiamo visto diciamo fotografato nel sistema Mondo di Mezzo Mafia Capitale, che non si ferma solo a Roma. A Roma diciamo forse ha trovato un terreno nei 20 anni precedenti, il terreno più fertile che potesse trovare, ma è un sistema dove l'interesse di una comunità piccola con rapporti strettissimi tra i suoi esponenti prevale sull'interesse pubblico. Questo avviene anche a livello regionale, nella regione Lazio, dove tra l'altro le relazioni di Mafia Capitale o comunque del Mondo di Mezzo a livello regionale stanno, insomma, sono al vaglio della magistratura, e avviene in tutto il resto anche d'Italia, purtroppo. Questo fa sì che quando tu poi arrivi come Movimento 5 Stelle, entri in queste situazioni e decidi di dare un'interruzione a questi rapporti, Ma non perché non ci debba essere interlocuzione. Ma lei sta dicendo, scusi, in un modo elegante, però lei sta dicendo che Zingaretti ha dei rapporti col mondo in mezzo. Cosa vuol dire che li vuole interrompere? Che ci sono in atto ancora? Sono in atto tra tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, anche a livello regionale. Cioè, quindi anche Zingaretti ha dei rapporti col mondo di mezzo? Beh, io non posso non ricordare che alla quindi fine, sì, alla conclusione... Sì. Ma non lo dice Roberto Lombardi, dice la sentenza di primo grado emessa qualche mese fa sul mondo di mezzo che il presidente Zingaretti è stato iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza su fatti che ha reso relativamente all'inchiesta mondo di mezzo. Poi come andrà questo processo lo vedremo, ma politicamente Zingaretti deve rispondere di una reticenza e di una falsa testimonianza. Non mi dia una risposta burocratica, lei conosce Zingaretti perché lo ha seguito, lo ha anche tampinato, lei pensa veramente che possa avere dei rapporti con poteri occulti? Mi sembra un'accusa molto grossa. Allora, Zingaretti e le responsabilità giudiziarie le dimostrerà davanti alla magistratura. La politicamente? Politicamente io vedo un presidente uscente di regione dopo 5 anni a cui hanno arrestato, indagato, inquisito tutto il braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra, e parlo da Venafe a Cionci in giù, che si rifiuta prima di andare a rendere testimonianza nei confronti dei giudici, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Quando poi è obbligato, in quanto testimone in un altro processo, a rispondere, viene imputato per falsa testimonianza. Ora, politicamente, un presidente, un esponente politico di primo piano, ha la responsabilità di andare a chiarire la sua posizione, ma spontaneamente, nei confronti dell'opinione pubblica, e collaborare con la magistratura. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, salutiamo Roberta Lombardi, la ringraziamo, e fra poco abbiamo una persona, vero Oscar, che ci spiega questo terremoto del gas che cambierà le nostre vite o non le cambierà, questo incidente siamo esposti, certo, che comunque ci fa un po' tremare. Mattino. Allora, per presentare Massimo Nicolazzi e illustrare il suo curriculum servirebbe una giornata. Ex vicepresidente dell'AGIP, della Lukoil, della Centrex, però oggi è Energy Security Advisor dell'ISPI e docente a Torino. È l'uomo giusto, Nicolazzi, per spiegarci gli effetti, gli echi di questo incidente in Austria che ha fatto tremare, come dire, gli impianti di riscaldamento e i cuori di tutta Italia. Buongiorno Nicolazzi. Buongiorno, mi ha fatto arrossire, buongiorno ai radioascoltatori e grazie per l'invito. Quindi allora, se è arrossito vuol dire intanto che il gas ce l'abbiamo perché fa caldo. No, vabbè, assolutamente, assolutamente. Che cosa leggiamo in queste ore, sappiamo in queste ore, e lo ha raccontato anche il nostro giornale radio, che è stata riallacciata la condotta, quindi mi dica se sbaglio, tecnicamente l'interruzione sarà meno grave di quello che si era ipotizzato nelle prime ore, l'interruzione del flusso, vero? Sono ritornato famoso solo per 24 ore, nel senso che non faccio più notizie da stamattina, sì, è durata pochissimo. Quello che vediamo dalle agenzie è che è stata ripristinata per intero, per cui abbiamo avuto fondamentalmente 2 giorni scarsi di interruzione dei flussi. Però questo... bravi gli austriaci, sì, gli austriaci, però questo ci consente di ragionare sull'esposizione a rischio di una elevata dipendenza, per così dire, perché lo è sappiamo, vero che... no? Sì. Vai. Allora, siamo più per il 90, cioè abbiamo una percentuale elevatissima di dipendenza, abbiamo non troppi tubi dalla, soprattutto dalla Russia e dall'Algeria, e quindi che cosa succede quando c'è un'interruzione di questo tipo? Cominciamo a dire che cosa abbiamo, nel senso che noi l'anno scorso, le arrotondo un po' i numeri, l'anno scorso abbiamo importato 23 miliardi di metri cubi dalla Russia, più di 17 dall'Algeria, più di 15 da Passo di Gries, che vuol dire Olanda e Norvegia, Olanda e Norvegia, e quasi 5 dalla Libia, per cui qualche tubo ce lo abbiamo, no? Un minimo di diversificazione c'è. Quello che è successo in questi 2 giorni ha rischiato di essere una tempesta perfetta. Perché anche il tubo dell'Olanda è in manutenzione, per cui non può andare al massimo della sua capacità normale. due dei tubi principali, uno si è chiuso del tutto e l'altro era, come dire, parzialmente ostruito. Nonostante questo... Ce n'erano altri due, però. Ce potenzialmente. Quello libico, che addirittura nei racconti di quest'estate era indicato come la fiamma, come no... il condotto che ci legava al paese della crisi, però non può crescere come... Allora, quello libico, il problema è come si fa ad aumentare i flussi dagli altri tubi quando se ne ferma uno. Uno non è istantaneo, perché non è che la produzione sia elastica nei paesi. Non c'è un rubinetto. Non c'è un rubinetto, no? C'è un pozzo che a pressione butta fuori delle cose che vanno nel tubo. C'è un'elasticità abbastanza pronunciata in alcuni casi. Quest'estate noi abbiamo avuto un aumento del 15-20% del flusso dall'Algeria in corrispondenza con una manutenzione dei tubi che venivano dalla Russia. Però non si può fare più che tanto. Il tema, paradossalmente, è che noi abbiamo dei tubi che vengono dai paesi che sono meno sicuri della Russia dal punto di vista della capacità produttiva. E anche, direi, dal punto di vista politico, come dire, della stabilità, no? Dalla Libia. Quello è soprattutto un tema libico. Ma il rischio politico è un rischio interno dei paesi fornitori, non è mai il rischio di... minaccia di non fornitura, hanno troppo bisogno di essere pagati per il loro gas. Se lei ci pensa, per paradosso, cioè la guerra garantisce la stabilità perché quello che serve per finanziarla. Beh, questo è geniale. Complimenti, Nicolazzi. Se non ci danno il gas, Nicolazzi, è un genio. Mi perdoni, però le faccio un inciso a dimostrazione della tesi. Qual è stato negli ultimi 20 anni il più serio problema energetico che abbiamo avuto? È stato un problema di rischio politico? No, è stato un blackout elettrico perché erano caduti degli alberi in Svizzera. No, così è. Guerre, rivoluzioni e il problema erano gli alberi. Storicamente il più grosso problema energetico che abbiamo Nicola, avuto. Torniamo al punto, però. Il fatto è che gli incidenti possono avvenire. Niente è perfetto, gli uomini sono imperfetti, gli impianti fatti dagli uomini sono imperfetti per questo. Allora, nel caso in cui avviene una stop della fornitura dalla Russia, come ieri, mentre il tubo da Olanda e Norvegia è in manutenzione e l'Algeria non può presumibilmente, tecnicamente, dice: beh, adesso in 2 giorni ti aumento del 30% quello che nel tubo può passare, perché il tubo lo reggerebbe come capacità, però il problema è che l'Algeria non è che poi improvvisamente bomba aumenta al 30% la sua capacità estrattiva in tempo reale. Allora, in quel caso lì il problema che si pone è: conviene o meno dare ulteriore ridondanza al sistema, cioè altri tubi? Tutti i giornali italiani, il ministro Calenda ieri sera è andato a porta a dirlo, dice sì, per un paese che ha questo tipo di dipendenza conviene, cioè al di là degli stoccaggi che abbiamo e che entrano in funzione, al di là di qualche rigassificatore che abbiamo, che a quel punto intensifica il cambio di fase e trasforma gas liquido e lo immette nella rete, ma al di là di questo, dice Calenda, la strategia nazionale deve vedere per forza nuove infrastrutture aggiuntive, e tutti citano il TAV. L'ho citato anch'io ieri, qualcuno si è incazzato in rete dandomi del cretino, però secondo me il cretino è lui. Sempre simpatici, come al solito. Ecco, però detto questo, allora, la questione che è poi quella politica, perché sa che sulla nuova infrastruttura Emiliano e così via, allora questa cosa dal suo punto di vista è come dice Calenda o no? Allora, tenterò di non essere troppo articolato, ma mettiamola così: la ridondanza, cioè avere più infrastrutture e più stoccaggio di quello che servirebbe in ciclo normale, è la base della sicurezza. Però, essendo la base della quindi sicurezza, quindi bisognerebbe fare più scorte. Aspetti, no, essendo la base della sicurezza, ha però come contrappeso il fatto che costa. Chi paga quanto? Il magazzino costa. Il famoso costi-benefici. Il magazzino costa, no? Comprarsi più ridondanza è come farsi un'assicurazione. Che cosa vuoi assicurarti in termini di costi-benefici? Allora, Per me è molto semplice la regola di Bazzica. Il TAP va benissimo perché se lo pagano loro. Cioè, ecco, c'è un gruppo di persone, di società petrolifere, che in maniera merchant ha deciso di investire in un tubo che arriva in Italia. Questi, a differenza di quello che succede in Puglia, sono tutti da accogliere a braccia aperte. Il problema però oggi è che fare un altro tubo significa fare un tubo che porta qui del gas che non alimenta dei consumi aggiuntivi, ma che deve riuscire come prezzo a spiazzare del gas, sì, che già c'è. Sì. No, perché i consumi sono qui e deve arrivare qui quindi con un prezzo competitivo per spiazzare gli altri. Io sono abbastanza convinto che senza forme di sussidi, aiuti e quant'altro questa cosa oggi non sia possibile, cioè il gas dell'est mediterraneo, se non lo aiutiamo tra virgolette, qui non ci arriva. Quindi o lo paga poi in bolletta elettrica il consumatore aggiuntivamente o la fiscalità generale, perché i sussidi, sì, sono l'uno o l'altro. Diventa un progetto strategico, laddove strategico vuole dire che tutto ciò che non è economico diventa strategico e finisce nella bolletta del gas della signora Gina. Allora, su questo, su questo una quantificazione costi-benefici dal punto di vista dell'approccio politico mi sembra quantomeno indispensabile. Poi possiamo decidere che i benefici prevalgono sui costi. Solo una però stima. Da che cosa ci vogliamo assicurare? Da 5 giorni avere stoccaggi e ridondanze sufficienti a salvarci da 5 giorni sotto zero a maggio? No. A salvarci per 5 anni o per 5 giorni dalle mancate forniture dalla Russia? Ci siamo una sticella. No, perché il problema è una questione di medio termine che ci consenta di fare anche eventuali, di reggere conseguenze di rotture politiche, Nicolazzi, significative con i russi. Questo è il punto. Ma voglio capire una cosa come ordine di grandezza. Questa assicurazione di cui parla Oscar, diciamo per 5-10 giorni, quanto costa? Cioè quante risorse bisogna investire per avere uno stoccaggio pari al fabbisogno di 10 giorni di carestia? Questo ce l'abbiamo già. Sì, ma quanto è ogni 10 giorni? Noi in Italia abbiamo una sessantata di miliardi di consumi e abbiamo 15 miliardi di capacità di stoccaggio. Ecco, questo. Fine. 15 miliardi. Sì. Su 60 di consumo abbiamo 15 miliardi di stoccaggio. Teoricamente, cioè potremmo coprire un quinto del fabbisogno. No, allora, come lei sa, il fabbisogno cambia stagionalmente. Certo. E gli stoccaggi vengono normalmente utilizzati per compensare le forniture invernali. Questo fondamentalmente significa che più si va avanti con la stagione, più se c'è una punta di freddo c'è un problema per ragione di pressione degli stoccaggi e di capacità di erogazione. Per cui, certo, se lei va sotto zero per 5 giorni a maggio, probabilmente ha un problema. Molto chiaro. Quanto le costa rimediare a quel problema? Mi sembra spiegato molto bene anche per la signora Gina, come dice lei. Allora, grazie. Naturalmente, Emiliano resta della sua idea e Calenda della propria. Beh, questo per dirlo ai nostri ascoltatori, ma è la politica è fatta così. Voglio dire, l'idea di fare una fonderia a gas mi sembra l'immaginazione al potere, per cui tutto il resto è conseguente. Beh, sa che questa però era l'idea di Emiliano, che però contemporaneamente, sì, non vuole il tubo. Vabbè, non comunque vuole il TAP, ma esatto, vuole fonderia a gas. Vabbè. Allora, tanti messaggi, ricordo le telefonate, c'è già Sergio in attesa, 800 24 00 24, un bel messaggio che dà l'idea del nostro ascolto, Oscar. Eccoci. Siete davvero bravi, vi seguo sempre, un piacere, da Parigi, mia figlia da Zurigo, l'altra figlia sta a Londra. Però vabbè, ma è una dinastia di banchieri oppure sono gli emigranti laureati? No, fateci capire, perché noi abbiamo entrambi nel nostro campione di ascolto. Però la signora Gabriella, normale cosmopolita europea, sì, però è bello che il podcast unisce l'Europa, li unisce. E noi uniamo anche l'Europa, dai, diamoci un po' di grandeur. Mamma mia. Sergio da Milano. Sì, buongiorno. Sì, lei io, è da Milano. Io volevo attirare un attimino l'attenzione su un fatto che probabilmente diventerà un problema in questo paese. Allora, si sta tanto parlando del discorso delle auto elettriche, ok? Allora, facciamo un brevissimo conto. Un'auto elettrica consuma circa 20 kW al giorno. Se diamo per scontato che l'uso normale sia circa 45 minuti a testa la nostra auto, per una potenza necessaria di 20-25 kW, che è una frazione di quella delle auto di oggi. Moltiplichiamo questo per i milioni di auto che ci sono in giro e ci scopriamo con centinaia e centinaia di megawatt che in questo paese non sono ancora disponibili sulla rete elettrica, non dico a livello di infrastrutture di distribuzione, dico proprio di produzione. Okay? Per fortuna, allora, si potrebbe dire, paradosso, non ci sono ancora le colonnine, quindi non c'è, sì, come erogarli, bene, però, non li abbiamo né, quello... se sto scherzando. Certo, no, ma è giusto, ma in ogni caso prima delle colonnine occorre fare un piano per la creazione di centrali che poi questa corrente elettrica la producano. Sì. E con cosa la produciamo? Questo è il discorso. Allora per essere sintetici e abrasivi, come sempre, così qualcuno poi si arrabbia dicendo che naturalmente io parlo. Gesù. Allora, scusi, a oggi la convenienza di questa nuove tecnologie verso le quali bisogna assolutamente andare, noi non possiamo misurarla solo in quanta energia consumano e quante emissioni circolando, perché naturalmente, come dice lei, dobbiamo calcolare l'intero ciclo necessario per produrre l'energia con cui poi le ricarichiamo, e quindi a oggi con una fortissima componente ancora fossile, varia da paese a paese, noi pochissimo carbone, niente nucleare, però il punto è questo. Secondo, poi bisogna computare anche tutta l'energia necessaria per il riciclo delle batterie, che è un'altra bella botta. Detto questo, bisogna andare in quella direzione. Per l'abbattimento delle emissioni, il bilancio energetico complessivo è un bilancio che ci rende ancora nella necessità di usare fossile. Noi siamo molto dipendenti per il 98% del nostro fabbisogno, e io ripeto, c'è anche una questione politica, perché bisogna essere il meno dipendenti possibili da gente come la Russia, che il gas lo usa, abbiamo visto in Ucraina. Per questo abbiamo un problema con il piano per l'energia nazionale, che dopo la strategia energetica deve essere deciso dal prossimo Parlamento l'anno prossimo, è una delle decisioni più importanti, quindi questo dovrebbe essere un grande tema di campagna elettorale. La decisione sarà che tipo di scelte vogliamo fare, per esempio uscire completamente dagli 8 gigawatt di carbone che abbiamo in Italia, e comporta 16 di 20 miliardi di spesa, e quanta ridondanza in più vogliamo avere per il gas, come ci diceva Nicolazzi. Queste sono grandi decisioni, certo, che la politica dovrebbe tentare di spiegare. Di solito le affidiamo ai tecnici, invece è sbagliato. Abbiamo anche un conflitto fra Enel ed Eni sul futuro, esempio, dell'auto, per perché bravo. L'Enel è contro il piano dell'Eni, concordato con la Fiat, che punta ancora sul metano, che però non mi sembra sbagliato. Roberto da Roma, al volo, l'ultima chiamata, vai! Sì, buongiorno, volevo solo puntualizzare, rispetto all'intervento fatto dalla candidata Lombardi sull'albero di Natale, sembra un dettaglio, non è un problema estetico. Quest'anno si sono spesi tre volte i soldi che si sono spesi l'anno scorso, quasi 50.000 euro, e si è andati ancora una volta a assegnazione diretta. All'affidamento diretto, questo era, hai ragione a sottolinearlo. Hai ragione a sottolinearlo. Meglio sottolinearlo, sì. Una cosa al volo, posso dirla? Ryanair, non si può fare questa roba che stai facendo. Io posso difendere il mercato tutto quello che volete, ma dire ai dipendenti, personale di volo di tutti i tipi, chi sciopera ci perde, minacce, sono un comportamento antisindacale che in Italia non è consentito. Sono sicuro che Luca la pensa come me, ma la notizia è che io lo dica con durezza. Esatto. Oscar Laburista, e noi ci sentiamo domani. Ciao.